vita a questo punto. La meglio variata, io me la vedo brutta, ma salviamo il salvabile. Per il momento sei tu quello che dà le carte, però per tutti c'è un'unica sorte. Tutti sulla stessa barca, salviamo il salvabile. Salviamo il salvabile. Oh. È giusto che ognuno si prenda una fetta. Chiudiamo tutte le scuole di lotta. Io me la vedo brutta, ma salviamo il salvabile. Salviamo il salvabile. Ci manca lo spazio, qui non c'entriamo più, però salviamo il salvabile, salviamo il salvabile. Salza al sipario, forse è l'ultimo atto, ognuno in fila a firmare il contratto, la recita continua e noi salviamo il salvabile, salviamo il salvabile. Soltanto quelli che hanno gli occhi nel vuoto hanno diritto a uscire dal gioco, ma noi che siamo in ballo, noi salviamo il salvabile. Salviamo il salvabile. Io stavo avanti e facevo da guida, e quanta gente si è persa per strada. Io ero in buona fede, ma salvate il salvabile. Salvate il salvabile.